Buongiorno. Sì. Roberto. Oh, ciao Roberto. Benissimo. E io come sto facendo, Roberto? Sta facendo bene, vabbè, ti sta ascoltando con un altro baracchino, no? La cassa esterna, no? L'altoparlante di l'esterno, c'è l'altoparlante della scatola, diciamo, del baracchino. Con l'altro ti ascoltavo con l'altoparlante esterno, ma ti sento benissimo. E tu come mi siete? Troppo forte, insomma, questo? No, oh, va benissimo, va benissimo. Nessun altro c'è? No, c'era una portante fissa, poc'anzi, una portante robe, poi Luca ha fatto uno squillo, c'era un suo vicino, e niente, sono io. Ciao, si era acceso, ma chi era acceso? No, ieri, aspetta che non è acceso, avanti ieri l'ho acceso, lo stesso, ma non c'era nessuno, sono rimasto un po' in radio, ma con lo squarcio chiuso, ma non lo sento nessuno. Chiappa. No, erano su 12, c'era proprio Torres, altre persone. Non so, fatto che vabbè, forse era un altro momento, che non ce l'ho io, che forse per quello. Eia. E beh, tutto a posto, non altro. Sì, credo che a posto, non me. Insomma, senti davanti, dai. Sto lavorando davanti. No, fermo, so. E non c'è niente. Mortuglio. Ma anche altri amici conosco da mettere il tuo, la stessa cosa, non so tu chi è che stava, vabbè, c'era anche sempre brutto tempo, molti i cantieri esterni sono sempre chiusi, molti lavorano, chi c'ha lavoro lavora all'interno. Speriamo che si riprenda. Sì, speriamo che si riprenda. Speriamo bene, vabbè. Non so, dopo se si blocca le dita poi si blocca anche gli altri lavori, gli idraulici, gli elettricisti, eccetera eccetera, fabbri, falegname, e tutto si blocca. Diciamo che si blocca un po' tutto. Ehi, un po', Claudio, non l'ho più sentito, voglio vedere che succede. Ma sta più entrando, non capisco il perché. Non stia più entrando in radio, non ho capito. No, ma mi si è preso il male del computer anche a lui, anche a me la mania del computer. Facebook. Mi pare proprio che sia così a vivo. Vabbè, poi già ti passerà il male. No, io già lo sto usando, computer, ma non su Facebook, cioè guardo così cose che mi interessano a me, su YouTube, cose così, argomenti che interessano a me, no? Non mi ha fatto per Facebook. Kappa, vabbè, le cose che ti riguardano per lavoro, sbaglia niente, non so se si sente, c'è un massimo vento, oh mamma mia, adesso infatti sto aspettando mi chiami per mangiare con mi figlio, ma oggi è stata una giornata, come mai sta fino a una settimana e sarò un po' più tranquillo, non dico sabato, domenica c'è una giornata tranquilla. E almeno ti riposi un po', eh. No, sono proprio stanco, per questa settimana, perché manca anche mio fratello, ce ne siamo fatti il matto più degli altri giorni. Sì, quando manca una persona poi si accavalla il lavoro, bisogna svilupparlo con poche persone, viene più pesante. Sì, ho sentito lì, ieri ha salvato il tempo di maestrale. Come? Per cosa ha salvato il maestrale? Sì? Ho sentito lì, c'è la piazza dell'antenna, che lui c'è una direttiva, mi pare la mia, tra le la sua, 4-5 minuti, adesso non me lo ricordo, la piazza dell'antenna, che male se riusciamo a parlare con qualcosa, che lui compie un certo modo, dice, si sono sentiti. Con chi? Compie un certo modo, si sono sentiti. Ah. Sì, si sento, perché lui c'ha la direttiva. Perché più c'ha la direttiva, c'è. No, lui non ne ha fiducia, non c'è l'antenna. Ma che antenna c'ha però c'è? Quanto va? Però boh, strano, io questo qua in certi momenti, non so se lo sentivo molto, ma molto più forte, lui mi ascoltava, l'italiano invece lo sento basso, un pochettino, cioè, ma lui a me che non mi sente mi sembra molto strano. Sembra strano sì, eh. Ho modificato l'antenna, boh. Non lo so, cazzo mi saluta gli altri. Ritrovi, va bene. Non so come vedete, sembra così, ma gli sbagli sono contagiosi, lo sai. Ehi. Non è avanti brutto quando ti viene così. Poi ti si attaccano le luci, come se ci attaccassi le luci. E la cosa, gli altri, nessun altro si è sentito, Domenico. Sì, Domenico già lo sento ogni giorno, Domenico. però stasera no, non so se dovrebbe uscire per lavoro. Come è andata? Questo era già in giro, già in passeggiata, non è così? Diciamo di sì, dai. Luca? Te l'ho detto, Luca è entrato un attimino quando c'era la portante fissa e ti ha fatto la telefonata a questa persona che deve essere il suo vicino. E gli ha detto di controllarsi il mic, che c'aveva il mic inserito. E stava andando a mangiare, stava andando. Ha detto, vabbè, ok. Gappa, gappa. Tutti gli altri amici di giù, portatore, la compagnia cantante. E quindi ero sul 12 ieri sera, ero sul 12, c'era un po' di gente da portatore e basta. Ma io ci sono neanche entrato. Cosa, Capri? Capri 2 l'ho sentito da poco lo stesso, adesso sono già un bel po' che non lo sento. Sì, ma cosa, il segnale è questo, rispetto a prima, ha cambiato, È più forte, mi sembra. Addirittura? Eia, addirittura, sì, è più forte. Questo è un vecchio pace fatto nel base della guerra, però già si fa sentire, dai. E contare più tre. La radio com'è? Piacevole? No, è bellissima la radio. Se guarda, adesso vanno portate fissa, se senti disturbi. No, tranquillo. E questi baracchini ogni tanto rimangono fermi, se perde qualche condensatore li fa rondare, meglio così là, perché deve stare attento, ogni tanto deve avere quelle gambe là. Sì, bisogna farle accendere un po', farle scaldare, anche se non moduli, bisogna farle scaldare. E poi il potenziometro ogni tanto bisogna pulire, se no la polvere si accumula dentro. È vero, è vero. Tu ora stai andando con l'MB40, con Mobico? No, io sto andando adesso con l'A87. E il microfono da palmo? No, microfono da tavola. Che cos'è il microfono? Da GMB più 5. Ah, giusto. Ma tra l'altro lo prendere anche, c'è un altro microfono da palmo tu, l'MB più 4, non l'MB più 4, come si chiama? Il Mobico. Mobico, sono riuscito a trovare le connessioni e posso farlo andare anche con l'MB più 5. E che va meglio dei due? Non lo so, dovresti sentire, ma adesso devo commutare l'antenna e cosa. Non ti conviene tenere tutti e due vicini per sicurezza, per dire, che come faccio io, sono tutti collegati all'antenna, poi commutatori, così da non ti soffri di un attacco e altro. Infatti mi devo comprare il commutatore dell'antenna, e così commuto uno e l'altro, devo comprarlo. No, io ho giocato come tu hai detto Claudio, ne ho tre commutatori antenna, ci ho collegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apparati. No, io devo prendere un commutatore a 2 e commutare 2 apparati e basta. Infatti è meglio, voi dovete togliere l'antenna a fare, te lo metti doppio, tanto possiamo anche seguire per questo, la GVC però ho pagato altri posti, ho pagato 12 o 13 euro, no, 14 euro vabbè. Sì, costano una cazzata, lo so. E infatti me lo comprare per farmelo. C'è uno sempre di riserva, per dire, molte volte attacchi uno o piatti l'altro, senza bisogno di staccare i connettori, perché almeno si toccano i cavi, è meglio. Ti fa gli spezzoni, puliti, ordinati. Sì, infatti. Si fa gli spezzoni e si lavorano gli spezzoni e basta. Vediamo, facciamo la chiamata generale su 10, attenzione al canale 10, che vuole entrare in compagnia di Roberto, da questa parte e dall'altra parte è Antonio Falchetta, avanti che vuole entrare. Pace in frequenza, non vedi nessuno. Mi dispiace, non ho più sentito a quelli di Alghero, né a cosa, a Sandro, a Conan, e a cosa, a Pinaggio, poi vabbè c'era anche a Carlo, però sono da parecchio. Tu l'hai conosciuto a Carlo? Carlo B. Quello di Alghero è lo stesso, un tecnico molto preparato, molto poi una persona ignorante in gamba, quando si faceva una discussione con lui c'era solo da ascoltare, perché sapeva un po' di tutto, di elettronica, ti potevi chiedere di computer, ti dava delle informazioni molto interessanti. Capo, no, non ho avuto l'occasione di sentirlo in verità. No, era un radioamatore, veramente in gamba, poi non ci vergogniamo a passare il 27, perché molti si vergognano a scendere il 27, c'hanno, non lo so, questo motivo di non farci ascoltare, sembra che la 27 sia chi ciao sano, me ne sentite ben entrato. Tutto qui, sembra che stia girando bene. Adesso te ne dà più Roberto che ha gli strumenti e ti controlla bene se stai andando bene o male. Ci sei stato, vai. Ok, ok, vediamo un attimino. Ok, vedi un po' sia di modulazione che di segnale, com'è? Ti stai portando un leggero disturbo appresso di alternata, un leggero alternata, non so da cosa possa dipendere, se magari stai amplificando troppo. Questo ultimo passaggio stavi leggermente saturando. Prova di nuovo. Ok, vediamo poi questo passaggio qua. Provo a passare un attimino, magari è questione dell'amplificazione. Sei molto alto di amplificazione, è troppo complesso mi sembri. Ok, vediamo un pochettino abbasso, metto un attimino così, così va meglio? Sì, lascia così, così va benissimo, molto più fredda la voce, ma come stavi leggermente troppo amplificando? Capo, dai, ho abbassato un attimino il mic gain, perché con questo logicamente basta appena che cosa? Come di segnale com'è qui da te? 9,10. Ok. Picchi sono picchi positivi. Sì, niente da dire, la colpa. Ci sta amplificando tantissimo perché sento tutte le voci che c'è intorno, o c'è la porta aperta, non lo so. Lo so, questo è un mic diciamo abbastanza cosa, non so se lo conosci, è la V908, quello con l'equalizzatore, che insomma raccoglie un po' tutto, bisogna aggiustare un attimino. Sì, no, lo conosco, c'ho anche io col microfono. E vabbè, sta andando bene, niente da dirti, molto meglio di altre occasioni che ti ho ascoltato. Quel microfono era soltanto a pensarsi un po' con le regolazioni, perché è abbastanza sensibile, diciamo, ai tocchi. Basta lo tocchi un po' di più, un po' di meno in una frequenza, ti può modificare completamente la modulazione. Comunque sta andando abbastanza bene, niente da dire. Modulazione ok, segnale ultimo. Avanti Antonio per Santo. Sì, ho confermato quello che hai detto tu, Roberto, la modulazione è buona, segnale ultimo, è tutto qui, tutto a rogere, Sandro, riprendi Sandro. Guardi chi è che vuole provare radio. Sì, chiappa, ma chi sì però, non ti sei presentato, chi sì? Ripeti, dove sei? Io ho capito che sei mezzo alla strada, c'è tutto solo, però non ho capito il nominativo, se lo vuoi ripetere. Guarda, io ti tiro fuori con le pinze, la radio ti può suonare 2, tenete al 3, il segnale è circa 6-7, c'è il QRM molto alto, io ce l'ho a queste parti, però la radio non è un granché, non può suonarti un valore perché non è, il segnale è molto debole. Dove ti trovi? Ripeti la zona. La Piazza del Sardo è Tirto, è una vallata. È in una vallata, vabbè. Ah. Stiamo modulando la città di Sassari. Puoi ripetere il tuo nominativo? Nuovo? Che sei nuovo, lo so, ma il nominativo non ne hai. Ah, non ti sei dato bene il nome. Non te lo metti. Questa è, sembra che stai parlando dentro un barattolo, troppo rimbombante, un po' distorta. Scusa amico, non ho capito cosa hai detto, scusate, non so, vediamo. Tu lo tiri fuori bene, Sandro, dalle tue parti? Ho detto che c'ha l'antenna buona e il baracchino un po' scadente. della vita, del cancello, ma l'antenna di cosa? La macchina, l'auricolare o l'antenna per stazione fissa? L'antenna auricolare? Che cazzo, se stai andando all'auricolare stai andando a una meraviglia, pure troppo. Dove sei vicino, tra te e due sta pensando, sì. Dimmi un po', e a noi come ci ascolti? E dimmi un po', che malacchino c'hai? Ho capito, fa il chiaretto, quello che sta usando, ripeti. Inter, che modello Plus, antichissimo. Canove Plus. Capa, sì, l'ho più o meno capito quello che hai detto, però devi fare, l'amico, devi fare modo di metterti un'antenna un po' più seria, dai, un po' più performante, perché qua se c'è un'antenna veicolare stai andando a una meraviglia, però sei basso, a parte mia arrivi molto basso di segnale, volessi fare modo di metterti un'antenna o una posizione un po' più alta o un'antenna che renda di più, perché chi conta l'antenna, non tanto la potenza. Franché, ti lascio subito un attimino che mi hanno chiamato, dai, vengo tra qualche minuto. Va bene, Roberto, guarda tranquillo. Ok, dai, ci sentiamo, buona carica a te, buon tutto, ci ha fatto piacere che sei entrato e ascoltarci, dai. Franchetto, la Sassa ti saluta, Franchetto ha fatto la Roberto ha fatto l'attimino di bianco, l'hanno chiamato. Io ti saluto, dai, alle prossimine, ciao. Ciao. Andrò. Franchetto! Di Domenico! E allora, Franchi? Buon domenica, andando ci siamo, qualche andando. Quanti? Uno? Oggi a fine settimana mi hanno voluto bene uno, e oggi riposo, dice. Ah, allora già va bene. È partito adesso? È partito questo momento qua. Al nuovo rifornitore che stanno facendo, mi quello. Yes. Dovremmo risparmiare benzina, non questo qui, dovrebbe costare meno la benzina. Oh, dici? Ah, quello che c'è a carica? Io lo sentivo. Speriamo. Stavo facendo uno qua, uno sulla strada che va a Porto Torres. Boh, vediamo, ma nei quali strada. Mi pare le bici sono lisce, so. Perché i prezzi sono quelli. Ma non c'è, ti ho chiamato, niente da fare. Ah, quando stavo rientrando? Sentivo, sono le 2:30. No. Però quella panattolata la volevo far sentire bene. Un Merlino non fa cazzo, però non parla mai. Tu Merlino non parla mai, no? Cazzo è un mistero. E con gente che non conosco noi, sì, di bilancia. Però è molto serio, capito? Allora ce l'avevo io ieri e lo stavo facendo pompare poco a poco. certo che... Ah, non ce l'hai oggi, c'hai l'altro, quello che hai sempre. Oggi c'ho il 48, ma ieri ce l'ho quell'altro bello. Paccato. Ah, c'era sempre il Merlino? Se eravamo deposito, dopo non lo vediamo sempre. Fatto che già chiamate, lo stavo registrando un po'. L'hai registrato? Registrato, quello lì c'ha diversi effetti, capito? Lo devi tarare. Lui a volte fruga, cazzo, non si ricorda com'era, allora mi rompe le palle, come va? Cazzo! Ma ascolta, ti senti, no, come sta uscendo, con l'effetto che vuoi? Certo. E a proposito, quello che hai messo a posto? No. Capo. No, lo devo mandare. E qua me l'ha, oggi ho parlato col tecnico, sta controllando il mio, no, quello lì vi siete parlati a vicenda, poco, e sta fatto il ritorno, infatti viaggiando vicini, capito, è successo. Ah no, lui ha fatto danno a te e tu a lui. Eh sì. E infatti ho detto che era un ritorno, capito? E va bene, se è una cosa che si può mettere a posto, già va bene. Ah, che fatto? No, che cazzo, quando sono io dietro tengo la distanza, quando ci sono loro si attaccano al culo, capito? Quello che rovina gli apparati. C'era anche Roberto Quadrato, mi hanno chiamato un attimino, c'era anche Sandro da Porto Torres, e niente, va tutti allontanati. Sono rientrato? No, fammi in compagnia dei Giovini, come? L'hai cercato, è uscito. Vai. Dov'è? Ok, dove stai andando? Sempre al solito città di dare le bombe. Sì, la città delle bombarde sempre, vabbè, buonasera, ben sentito. Sempre lì. Purtroppo, meglio che ci sia il lavoro per andarci, sarebbe brutto non avere niente che guardarsi gli altri che lavorano. È un lavoro un po' pesante, l'ho detto sempre, però bisogna essere portati per fare quel tipo di lavoro. Che positivo, ognuno ha la sua passione, poi se io auguro a tutti a fare il lavoro con passione, e poi. L'altro giorno c'era una tua collega donna, infatti sono rimasto anche un po' stupito col baracchino, una certa Danila, non so se la conosci. Boh, in buca è entrata. Poi non penso, dove? Sì, è senza. Sì, anche io ci ho parlato con Danila. Non è facile trovare donne che portano quei mezzi pesanti, normalmente massimo qualche macchina un po' grossa, ma un camion ci vuole anche il manico per portarlo. È vero, Robè. Sì. Buca, Robè. Ma non sono immaginato, hai capito quello che ti ho detto? E questa collega si chiamava Danila. Danila, così almeno si è presentata con quel nome, poi non so se sia il suo o quello del baracchino. Ma credo che sia un coso frigo, una cella frigo, almeno per quanto ho capito che stava dicendo. Ci sei ancora dove? Seconda buca. Esatto. Ciao, una ragazza, cioè Simone, deve essere lì. Infatti ha detto che non era di Sassa, l'ho capito, probabilmente era proprio di Mores. Allora è lì, non ti fai fare. Perché qua ce ne sono due, c'è lei e un'altra ragazza che fa movimento terra di qua di Ossi. Cioè usa mezzi di movimento terra, ruspe, pare meccanico, cosa del genere? Dire! Che? Robè. Chi stai tornando? Eia! Come stai uscendo? Ma anche io sto uscendo di così piccoli, in macchina. Non ero con pugno. Eia! Certo, se non me lo dicevi tu non ci credevo. Faccio schifo? No, non schifo, non mi sembra un'altra persona che conosco di persona, però ho detto, come ti mai fai un baracchino? Cioè se non mi dicevi che ti chiamavi tu Antonello, avrei detto tu e non mi fai un baracchino. Con Giuseppe Leoncino qua. Come? Come sembra Giuseppe Leoncino? Sì, Giuseppe Leoncino. Sembra lui! Ma dici, c'è il segnale che parte da 9.10 a 9.40. Sono vicino a casa tua. Nel movimento, sì. Eia, sono in macchina. Sono vicino ai vicini urbani. Ah, bravissimo allora. Vediamo se domenico c'è ancora. Domenico, sì? Io ci sono. Stavo dicendo quella tipa che stai dicendo tu, guida i mezzi, cioè la cava, cioè le pale meccaniche, eccetera, eccetera. Attenzione Roberto. Io uno con articolato, con una motrice anche se no è in cava. E fa quel lavoro, la parola magari. Cappa, non è difficile, cioè è molto difficile sentire le donne che fanno quel lavoro. Aspetta, chi è che ha chiamato Roberto? Avanti. Vabbè, buonasera comunque. Buonasera. Ma chi sei, Giuseppe? E cappa, perché non riconosci la modulazione, no, vero? Certo, quando sei lontano c'è una radio diversa, anche Antonello non lo conoscivo. Ehi cappa, dai la sto accompagnando a casa sua e dobbiamo fare una modifica al microfono, dai. Tu la devi fare o te la deve fare lui? No, lo fa lui, Robè, io posso fare un'altra cosa, lo sai, no? Lo so, allora, vabbè, no, ho capito. capito, gli devo fare una modifica al microfono. Comunque sei in compagnia mia, di Antonio Falchetto e di Domenico, non so se l'ascolti, è in direzione di Olbia. Vediamo prima di tutto il più lontano. Dove lo senti? Lo sento più io, Roberto, lo sento io via, no, non capisco, ho sentito da te che è Leoncino, però basta, se mi ascolta lui, buonasera, 7:03. Sentito Giuseppe? No, oh, la verità no. Comunque ti ha salutato Domenico, dice che ha sentito più più per un pezzettino. Adesso facciamo andare avanti a Falchetto, avanti Antu. Ciao Antonello Pompugno, e ciao Giuseppe. Tanti bacioni, mi raccomando, farò farò. Vai, stanno vicino così, vai. Domani facciamo la buona tutte e tre, io tu e Roberto. Un trio. Non ho capito. Avremo un trio. Ma siamo il triangolo, no? Ma che baracchino è, tu, Antone? Un milione di quelli piccolini, fini fini. Comunque si sente bella chiara la voce, non è amplificata, però si sente bella pulita. Ma che così era ora? Andiamo via. Allora, andavante Domenico, se ci ascolti ancora, avanti. Sì, certo, ascolta, se ti ascolto bene, dagli altri, più io, no. Non capisco ciò che dicono, che dico a te, Falchetto, sì. Riprendi la Falco. Graffa, Domenico, graffa. Andiamo alla precedenza che è più lontano. E allora, la città delle bombarde anche stasera, dai. Ma facciamo visita lì e poi torniamo indietro, che rizzo, tutto qua. Ah, è positivo, Domenico, già va bene, meno, dai. Andiamo bene. Vai, Roberto, e fai girare. Un giro solo oggi, Domenico, vai e ritorni qua a casa, è finito. Positivo, positivo, un giretto solo. Quanto è il tuo record in una notte? Due passaggi o tre passaggi? Una notte, l'arco del giorno sono sei. In un giorno tutta la tirata, sei ne ho fatta. Ma non è corretto, diciamo, a livelli legali? No, corretto, per niente. Era, io ti parlo, nel 97 le ho fatte. E poi sei stato tre giorni con il gatto? Ma così ti distruggi, mamma mia. Puoi farlo di notte. Tu di notte invece quanto è il tuo record? Dove? Ho detto di notte il tuo record, quante volte l'hai fatta andata e ritorno? Di notte lo puoi fare, partendo a quest'ora ne puoi fare tre, dai, tre. Di notte solo, nell'arco di tutto il giorno. Quel giorno che era successo l'incidente degli operai alle punti, che stavo partendo quel settimo e non ce l'ho fatta. Pure il settimo dovevi fare, cacchio, buh. Alla fine quando sono educato dove tu ti metti a cambiare le marce, altrimenti l'abitudine. Dicevo da lì a Porto Santa, oltre a Porto Santa, facevo un assalto e prendevo dove non le voglio. L'ultimo viaggio che ho agganciato lì a San Giovanni, quando stavo salendo, ho assistito l'incidente degli operai. Non lo so, purtroppo. Brutta studia era quella, non lo so. Ok, cacchio, farne sei volte in un giorno non è uno scherzo, mi ha levato di strada, mamma mia. E quando si potevano fare, quando si guadagnava anche, ma ora anche se ne fai sei non si guadagna. Ma voi vi pagano a viaggio o a giornata? No, la giornata pagata più 50 euro di morchio. Più 50 euro? Comunque è sempre un lavoro, mamma mia, se lo fai per qualche anno alla fine, mamma mia. Invidio, anche se ci vogliono le palle per fare una cosa del genere. Oh, e lo conosci tu, Antonello Peter Pan? Antonello Peter Pan, questo credo che sia il cognato o il compare di Fortunato, che sono tutti e due camionisti. Lo conosco, Antonello, che lavora che ne ha avuto un bel po' di problemi di sempre per il lavoro, l'altra volta ne è caduta la sponda, la fascia a faccia, di tutto gli è successo a quel ragazzo. Non solo a lui, ieri sera ne abbiamo subito tutto, per l'ospedale io, per un carico che mi è caduto addosso. purtroppo è sempre un rischio fare, poi molte volte quella cosa l'hai fatta centinaia di volte, un attimino di disattenzione, tum, e sono così brutto, mamma mia, cambiamo discorso, dai, avanti Falchè, riprenditela. È così, purtroppo sono cose che succedono, ma pensiamo sempre alla, al meglio, dai, che è meglio. Kappa, dove sei arrivato? Dove? La salita, ma il sale ho buttato, il sale ho buttato, previsioni cattive. Aia. Ma vabbè, fai girare se per pompone se c'è ancora in linea. Ho buttato il sale, così dove? Io ho detto io, beh, abbiamo 3 gradi, Addirittura, cioè pensavo io un'oretta a fare un fuori a piedi, ma non pensavo ci fosse tutto questo freddo. C'ha ragione un ragazzo qua, l'officina, da me mi ha detto stamattina ha trovato, lì c'è la prima volta il ghiaccio nella macchina, la macchina ghiacciata, il parabrezza ghiacciato. Senti, io stanotte lo stesso ha fatto parecchio freddo, ma che cazzo è successo? Noi ho avuto i lampadieri di sotto, vuoi vedere se c'è incidenti? Bobo, stai attento dov'è, mi raccomando. Attenzione, Robby? Sì, avanti. Eia, cucciolone, tutto bene? Bene quello che va bene, dove sei a casa di Antonello? Eia, capa. Perché? Ma ti intendo già. La matta te ne vai, a me non, quando sono a casa non mi senti, no, vero? Non ti sentono. Ma cosa cazzo non senti? Cazzo mi sentivi prima, adesso non mi senti più. Passo passo stai uscendo. Ma cosa basso basso, cazzo, è come la stessa cosa, come era piantata l'altra volta, è lo stesso, è così. Boh, a me male di basso, che siamo partiti, non andiamo a arrivare meglio. A Falchetto se non arrivi 9 più 20, non segnale, non va bene, non è così il Falchetto. Esatto, visto. Ruby. Dimmi. Chi era quello con la barra pesante? Chi c'era? Domenico, vediamo se c'è ancora, perché dice forse è successo qualche incidente che c'era un po' di lampeggiatori. Domenico, c'è ancora? Attenzione, Domenico. Attento, Domenico, Tazzaretto. Subito è successo veramente qualche cosa. Se mi sentono che stanno buttando il sale, vuol dire che è venuta ghiacciata, che uno, cioè non si è fatto male a nessuno, dai. Ok, attenzione, Domenico, se occupi questa stazione che batte la Sassari, avanti. Probabilmente c'è qualche blocco. Che lì, meglio che vada avanti tranquillo, dai. Ok, riprendete va un attimino, avanti Giuseppe, e fa un pugno se c'è, tirare un pugno a testa. Ricambiato accento, dai. Alessio sta facendo quella modifica al microfono e dunque sono io, dai. Allora, attenso, dai. Vai Falchè. Proviamo a rilanciare Domenico, se non è sempre sia cose non gravi. Attenzione Domenico, se vai sgusciando qua sia la sierra che chiama. Esatto, pensate, ci siano anche la polizia, ma è successo qualche cosa, eh? Ha detto c'erano lampeggiature, bisogna capire se lampeggiature sono ambulanza o forza dell'ordine. Uno dei due dovrebbe essere, perché lì si è visto tutto illuminato. Eia. Via, per carità, bisogna andare piano con queste macchine. Ma le macchine anche con il camion. Ma non è questione di andare piano, è questione di andare sotto, quando scende la temperatura si mette quel velo di ghiaccio e è un problema serio quella strada lì, Però la strada non vale niente, cioè ci passano centinaia e centinaia di macchine al giorno, tanto è sempre la stessa, a 20 anni di tabacco non hanno fatto nulla, sempre la stessa strada. L'asfalto ogni tanto li tappano qualche buco, ma è tutto distrutto. È vero. E mi senti le ambulanze battendo me? Me, hai te le ambulanze? Hai te? Ma le senti? Ma mi sembra un vigile del fuoco questo. Adesso intervengono anche i vigili del fuoco. Ambulanze e vigili del fuoco. Vabbè, ma dove è successo l'incidente? A Capomela? Oh, lì a Saccaccia. Cazzo. Vabbè. Sperando che quelle persone non si siano fatte niente di grave. Guarda, quando intervengono i vigili del fuoco, quando intervengono loro è per tagliare la mira. Cappa. Va bene, dai. Riprendi Robertino. Perché facciamo la chiamata a Domenico, se ci può dire qualcosa. Attenzione Domenico, se copi qua, avanti. Peter Sandro. Vabbè dai, signori, ci sentiamo tutte fra 10 minuti in zona macchina e poi da casa, dai. Vi saluto tutti quanti per adesso, guarisci per me, dai. Andrà bene, Giuseppe, dopo Mari. Ma tu stai parlando, Falchè? No. Senti com'è importante sotto di lui. Anch'io. C'era questo 9.10, 9.15 segnale. Chi è avanti che chi mandava il segnale? Sandro, tu sei? Che è questo? Senti? Sento la portante, ma lo esci. Allora, se sei tu, batti un colpo. Sembra il segnale di Sandro, ma non lo so. Può essere anche un segnale della zona bassa di Sassari. No, vabbè, non è il segnale di Sandro quello, A me Sandro mi arriva 6 di segnale, a te ti arriva 9 e qua, però a me mi arriva 6, Non riconosco subito il segnale di Sandro, E perché questo segnale quando ti sta arrivando a te? 9. No, allora se ti dice arriva 6, è più o meno quello di Sandro il segnale. No, Sandro mi arriva 6, questo è il segnale 9. Allora non lo so chi sia, va bene. Può essere qualche segnale qua di Sassari, ma è zona bassa. Come l'ho detto, se vuole entrare le porte sono aperte. Avanti, se vuole entrare, se no fai un po' come vuoi. Domenico, vabbè, ormai non ci sentirà più Domenico. O almeno se ci sente non riesce a farci sentire. Ci sei Domenico? Cazzo, la portante, cazzo, non ti vedo la fastidio, ragazzi. Parla se di parlare, no? Magari qualcuno che non riesce a uscire, vabbè. Può capitare a tutti, molte volte stai facendo delle prove e non riesci a uscire, però vedete che. Ok, attenzione Domenico se cupi qua alla stazione di Sassari, avanti. Sta parlando qualcuno però non capisco quello che dice. Li senti tu fate? No, aspetta, provo a chiamarlo io, magari arrivo più. Attento Domenico, se mi vai copiando, Sassari. E quello di prima di coso, cosa c'è con l'antenna veicolare? Stavo uscendo dalla tratta di 230 con l'antenna veicolare. Ehi, sta facendo bene. Diciamo a me arrivava basso, di radio era 2-3, riusciva a tirarlo fuori con le pinze. Però come succede ad avere un'antenna veicolare era dicendo che è una bomba. Guarda se si mette un'antenna grande allora. Si mette un'antenna grande esce bene, caspita. Quando ti arrivava a te di Santiago? Santiago non tanto, di Santiago 2, massimo 3, non ci arrivava a 3, 2 e mezzo. Però di radio arrivavo 3. Quindi l'ascoltavo abbastanza bene. No, io 2, qualche passaggio a 3, però era poco chiaro, allora molti passaggi li perdevo. Però cazzo, considerando che era in Kiwi, se era vero, naturalmente molte volte qualcuno può sparare anche balle, può dire magari sei a carica e dice che sono a Buduzzo, ma noi convinti perché magari c'è con un antennino, non lo so, infatti se per avere un'antenna di macchina, ci ho dei seri dubbi. Come si chiamava Nardo? Poi si ha detto. Ma forse era nuovo, dice che non aveva nominativo. Ha detto che era nuovo, non sapeva ancora che nominativo mettersi, però dice in paese lo chiamano un altro. Lo chiamano, uscì. E lui si ha detto, infatti non sei capannardi, sei. Ok, facciamo un'altra qua chiamata su 10, attenzione canale 10, compagnia di Roberto di Antonio Falchetto, chi vuole entrare con la buonasera avanti. Avanti. Beh, come mi ascolti adesso? No, sempre bene. Ma sei in macchina adesso? Yeah. No, sta andando benissimo, niente da dire. Prendi l'acciaio, dimmi in macchina. Non è una... Quella antenna è qua, che c'ha dietro. Ah, turbo 2001, quanto è grande, alta è? Ok, c'è qualcuno che sta mettendo portante, comunque ti tiro fuori tranquillamente, non c'è problema. Vabbè, qua. Guarda un po' quando ti metti la portante anche il segnale ti arriva a te. No, ma vabbè qua, io sono l'ala, sento fluido, non te lo posso vedere quando ti arriva e quando non arriva, capito? No, tu menti, non ho smitta. Macchina del pubblico, lo chiamano, così è. Così, è di sotto. Oh, yeah. Ah, vabbè, ma quelli li usano normalmente lo sellogo nel camper, li mettono piccolini che non danno fastidio, tanto nel camper non gli hanno fatto nulla, parlano tra di loro, mica devono parlare con le cose, non hanno necessità di grosse potenze e di cose grandi, fanno uno dietro l'altro quando sono in carovana. Hanno prestato dunque. Portate nome. Madonna, poi. Vabbè, portate nome. Sì, ma lui è 9 più 20, già lo passa. Tu perché lo copre a Giuseppe la portante? Nella mia parte sì, un po' lo copre. Ma qua non gli fa niente. Un po' si sente sottofondo, ma lui ci passa lì alla grande. E vabbè, considera che vicino a te da qui. Dove sei Giuseppe? Quindi se sei vicino a me non è che sei così forte di segnale. Pensavo che... Ma lui c'è Antonello, sì. Io sono sotto casa di Antonello. Considerando che sei sotto casa di Antonello, dovresti arrivare molto più forte, che strano, boh. Non so perché, è 9.20, non è che sei poco, ma dovresti essere almeno 9.30, 9.35. Ciao, io. Chi è avanti? Domenico, vi potete chiamare i pompieri. Che è successo per te? Chiamatevi i pompieri che... Dove è successo, dimmi? Subito ma se non posso la salita di Sacca. Subito, cioè, ripetimi, scusa un attimino. Subito dopo la salita di Sacca è successo. A che altezza? Non è un chilometro più o meno che chiamiamo. Prima del bico di Sacca. Di Ploaghe. Allora tu fai la salita direttamente di Ploaghe, prima del bico di Ploaghe. C'è un incidente sulla strada, così è. Chiama i pompieri, prima della... Di Saccaggiami, c'è una ragazza incastrata dentro la macchina. Aspetta, dai, vediamo, sempre che non siamo già partiti, un attimo. Sta chiamando lui. Porca troia. Che voleva questa, eh? Ma Domenico, ho visto tutte queste luci, lampeggiando e coso. Cosa di brutto. Fatti meno il bianco che chiamiamo Domenico. Aspetta, Domenico, se occupi qua. Domenico, ci sei? E dove si sta dando soccorso a questa ragazza? Un attimo di bianco che faccio la chiamata, scusa. Cappa. Ci voleva, eh? Non ci voleva noi. Vabbè, perché questa ragazza è giovane pure. Sento che una ragazza è giovane. Vabbè, potrebbe avere anche 30 anni, eh? Sì, e beh. Beh, dille che stavi parlando con Domenico e ti aveva detto Domenico di chiamare il vigile del fuoco, urgentemente. Ma è possibile non rispondere al 115? Se è possibile, sì. Certamente non risponde a nessuno. Allucinante. Sì, ma c'è il 115 il vigile del fuoco, non è così? E io? Non può migliorare. Provaci tu, Giuseppe. Sta suonando, non rispondono. A meno che non l'abbiamo già mandati. Adesso provo a chiamare dal fisso, aspetta, poi ho chiamato dal cellulare. Chiamo dal fisso, vabbè. Domenico, sì? Domenico? Attento Domenico. Se l'ascolto Domenico. Oh! Eh? Vabbè, lì c'è già partita, lì stanno arrivando. Anche i carabinieri l'hanno chiamato. Ah, ecco. No, perché Domenico deve essere che sta soccorrendo con questa ragazza. Com'è che sta soccorrendo questa ragazza? Ehi, deve essere se dove cambia soccorso, c'è incastrata nella macchina. Era un po'. L'avevi sentito dalla voce un po' spaventato. Ehi. Ma non sa niente di grave, perché bisogna stare attenti anche a queste macchine nuove, questa iniezione elettronica, se ti cade un po' di benzina sulla cosa, cacchio, un amico mio ne ha visto una scena del genere, del tipo dentro, e non sono riusciti a toglierlo fuori. Prende fuoco, lo sai. Già lo so, basta uno schizzo di benzina, una volta che hai detto non esci più. Poi? E me l'hanno detto che non rispondevano, non rispondevano al cellulare di del fuoco, hanno risposto subito al primo squillo, al coso, al fisso, al cellulare non rispondo. E tu l'hai provato a dire? Non so, vabbè, dalla voce mi sembrava una ricca, mi sono presentato per nome e cognome, mi ha detto sì, siamo già intervenuti. Cappa, speriamo non sia nulla di grave. Dato che non siamo venuti da Ozzi, intervenuti da Ozzi, forse arrivano prima, boh. Sì, no, vabbè, da Ozzi, mi sembra più lunghetta la strada. Se sono attaccati a Ozzi, più o meno a metà strada sono, beh. Infatti, forse arrivano prima da Sassari. Cappa, un po' più rimasto qua. Non lo so, Giuseppe, ci sei ancora? Sì, già. Comunque la porta è stata intelligente, non manco uno, ha rotto la scatola. Almeno quello. No, ma lo mettevo quando parlava Giuseppe. Qualche guanto da mettere, sta handicappato. No, non ha capito che era una situazione d'emergenza. Meno male. Però quello è stato onesto, ha capito. L'ha capito che è un'emergenza e dunque deve lasciare il canale libero. Almeno quello. No, ma non è quello il problema, che in quella zona lì non prendono cellulari, mi lo sai. Scappa. Adesso andiamo a vedere cosa è questo incidente, se ha bisogno di aiuto, boh. Aspetta, chiamiamo a Domenico se ci può ascoltare. Attenzione Domenico, se occupi qua a Sassari, stazione di Sassari, e confermi, scappa. No, deve essere giù dal mezzo, comunque, se no avrebbe già risposto. Non lo so. In realtà è sempre con gli occhi aperti, è inutile. Pesce, se la stavamo appena parlando, ma c'è pesce che fatalità, guarda. Speriamo che non sia niente di grave, dai. Ok, andiamo, dai, cambiamo argomento, poi se c'è Domenico ci chiamerà nel frattempo, dai. Avanti Giuseppe, poi fa girare. Sai, gioca, sì. Ma non sai dove è, è andato una salita di Polaghi a venire. La salita di Polaghi ha detto più di Saccaccia, quasi a Saccaccia. Vabbè, io ti sento, non so se Falchetto ti ascolta, lo senti Falchetto? Sì, già l'ascolto, piccolo ma già l'ascolto. Beh, con quell'antenna non so se può andare molto lontano perché arriva quattro volte più forte a Domenico, poi a Santiago 7 lui, a staccare la scala di gioco a dire dovresti arrivare il minimo 9. Giuseppe, mi ascolti a me? D'accordo. Bene o male? Come? Prova tu, Antone. Tanto voglio dire. Oh, a me non mi ascolti. Ah, positivo. Va bene, va bene, va bene. Chiediti sempre in contatto, ora qua ci sapere. E speriamo che si sia formata la fila della coda delle macchine, perché sennò casino le guacce. Allora, come è arrivato Domenico, è appena successo, perché arrivare subito sul posto non ce n'era ancora di fila. Adesso magari si potrebbe, vabbè, siamo anche di notte, a questo non penso ci sia tanta gente. Facciamo una chiamata di nuovo a Domenico se ci può ascoltare o se ci può rispondere, anzi non se ci può ascoltare, ascoltare sicuramente sì. Attenzione Domenico, se copi qua a Sassari avanti. Ecco, tu sei Giuseppe a parlare. Tu sei parlato Giuseppe. Non ho capito cosa hai detto però. Giuseppe, cosa hai detto? Fa che l'hai capito? Hai detto che è arrivato quasi all'ultima curva di scala di gioco. Ah, allora l'ho capito bene. Appaccata, porca miseria, cavolo. Bello, non abbiamo neanche nessuno in zona, per dire, qualcuno che poteva fare la ponte. C'è Domenico, ma Domenico senz'altro starà cercando di dare una mano a questa ragazza, poverina. Ecco, per incastrarsi dentro la macchina, chi sa un colpo che ha pigliato, buco. E un colpo che ha segnato la camionetta, buco. Vabbè, non è tanto la velocità, molte volte se ti sbatti a un palo o a qualcosa di duro, salgono le gambe e tutto il cruscotto sopra le gambe. Speriamo proprio che sia una cosa, diciamo, se si è fatta male che non sia niente di grave. Speriamo bene, dai, speriamo bene, porca vigilia. Perché a non rispondere Domenico deve essere giù dalla barra, Probabilmente c'è Gesù Giuda. Ok, a meno che non hanno fatto proseguire i carabinieri, non so perché dice che c'erano, adesso hanno parlato di Vigile del Fuoco, mi ha detto sono intervenuti i carabinieri, li hanno chiamati i carabinieri. Vabbè, allora adesso piano piano fanno sbloccare la carreggiata e via, dai. Ciao. Allora mi informo chi c'era di turno questa notte dai Vigili del Fuoco, chi mi ha risposto perché mi sembra un amico. Ciao. Andà via, andà. Ok, vediamo ancora di nuovo sul 10 se c'è qualcuno, Domenico se ci sei, se puoi rispondere, avanti. Io sono membro di Giuseppe, lui è. Ma è incomprensibile. Lui probabilmente ci sente a noi, però noi non lo possiamo sentire. Con l'apparato tira fuori 3 watt se ci arriva a buca, più c'è un'antennina che non sta rendendo come dovrebbe rendere, per cui non può fare quando si sposta un po' più avanti invece dal coso, da stare in giocca. Giuseppe, ci senti? Attento Leoncino, ci ascolti? Ora. Sta parlando, ma è incomprensibile capire quello che sta dicendo. Giuseppe, se stai parlando non riesco a capire quello che stai dicendo. Negativo. Non riesco a copiare quello che stai dicendo, Giuseppe. Vabbè. Poi ci si accorge. Sì, capo. Parlando ma non riesco a capire quello che stai dicendo. Adesso è muto, non sento niente. Adesso è muto. Eppure, cacchio, sto pensando a questo fatto che non rispondono al cellulare i Vigili del Fuoco. Cacchio, ti capita un'emergenza, tu convinto, tra un po', è una cosa importante, è meglio informarsi. Domani chiedo a mio cognato di vedere come mai non ricevono. Quello è importantissimo, perché dal cellulare 115 sono telefonate di emergenza e loro per forza devono rispondere. Non che non c'hanno dei filtri che non le fanno passare questo cacchio di Vodafone o cosa del genere, perché è strano, non so quanti squilli ha fatto, avrà fatto 20 squilli, alla fine ho mollato e sono passato al fisso, al primo squillo, al secondo squillo ha risposto. Dimmi Giuseppe. Cosa hai detto? Sei al distributore? Ho capito cosa ha detto, hai sentito fatto? Ed è partito il tasto del mic. No, però gli è partito il tasto del mic. E buh, come mai è partito il tasto del mic? Piacciato troppo. E come se non ce la posso fare adesso? Piano piano. Andare. Piano piano. Qui la vai a Sandro pure a volte. Troppo dire del fa Giuseppe. Giuseppe, prendi al volo il tasto del mic. Ho rotto il mic, sì. Sai che chiamano Domenico se ci risponde. Domenico, ci sei? Ho rotto il tasto del mic. Chi sei? Già il poco l'ha avuto arrivato, Giuseppe. Prima vai a fare un tasto del mic. Sei nervoso, so. C'è Claudio Sparviero in frequenza. Attenzione Claudio, se batti un colpo fatti sentire. Che fa Claudio, accende sempre, molte volte non entra, però ascolta. Lo so, lui accende sempre gli apparati. Ha detto Claudio Sparviero, dai che sento la tua mancanza, Claudio. Oh, negativo. No, magari umido, molte volte fa turni, lavora la serata presto e mai va con i calci presto, anche adesso tra qualche minuto devo mollare, la cosa mi è passata un po' lo sbadiglio, ok? Adesso sono un po' più arrivato, ok, vediamo un pochettino di nuovo a Giuseppe dove è arrivato, se ci ascolta, attenzione Giuseppe, adelante. Sì che ti ascolto, dove sei? Al Bivio di Urbia, era di Sebastiani tu. Ti senti si dicendo, dove stai sbagliando strada Giuseppe? Aspetta i tuoi devi prendere. Cagè che ha detto. A cagè? Cos'è? Devi prendere per cercare, Urbia devi prendere. saluto. Sali, quando sei nato fatti sentire. Sì, la massa per pagare. A partendo, anzi da quel male. Ma fai da zecito Giuseppe, cazzo, bu. Allucinà. Che stanno aveva fatto questo che ci stava a vedere l'incidente. Ma lui. Allora Maria ci ha fatto tutto dal caso, il traffico chiuso, è stato tutta la notte bloccato lì, finché non liberava la strada. Poi la ci ha fatto il congelato, Giuseppe, pone della coperta, stravanta, buone del nato, qui va freddo, sta notte, andrò in macchina. E la curata, e la curata. Ma che vai a portare un paio di coperte? E ha detto che c'è l'ambulanza, mi l'ambulanza, mi l'ambulanza. Comunque quello che hai sentito tu, probabilmente stavo andando lì, cioè siamo già partiti, mi ha detto, quando ti ricordi che mi hai sentito, mi ha fatto sentire le sirene tu poco fa, le vigili. Ehi, era appena partito. Però che almeno, non meno di 25 minuti ci impiegano arrivare. 25 no, 20 minuti sì. Sì, sì, più o meno sì. Mica camminano bei 2 metri, faranno 80 all'ora, non di più. E infatti, no, poi adesso Giuseppe dice che ha visto l'ambulanza. E adesso poi ognuno che passa chiama un'ambulanza, ne arrivano 4 o 5. Ehi, ehi. Aspetta, facciamo di nuovo a Domenico una chiamata. Attenzione Domenico, se ci sei, fatti sentire. Dice Giuseppe, però non capisco cosa sta dicendo. Come neanch'io. Attenzione Domenico. Non sarà ancora giù dalla barra, senz'altro. Avrebbe risposto subito. Ma che non l'hanno fatto andare avanti. Infatti. Poi è pericoloso pure fermarsi in certe situazioni, se quando dove la macchina ti fermi, ne arrivi nei lastri qualcuno distratto, se non è illuminata bene la strada è un problema grosso. Ah, è vero, è vero. Finalmente quelli che stavo raccontando Domenico, quelli che hanno ammazzato nel pezzo prima di, dopo i punti, là. E il pullman, erano tutti... infatti sono scesi per l'incidente, ma basta sempre che gli ha abbracciati come birilli. Sì, sì, lo so. Io ne ho conosciuto uno di quelle persone lì che era di lì presente. Quest'uomo mi racconta sempre, mi ha detto, io quando vedo un bravo, io ho il terrore addosso, dice, perché lui ha visto la morte in faccia, dice, ho visto questa bravo oscura, me la sono vista addosso tutti i miei colleghi erano della petrolchimica, che li sono morti davanti. Ha detto, io ho visto la scena, dice, grazie a Dio mi sono salvato, e ogni volta che io vedo una di quelle macchine, è come che vedo la morte addosso. Che già lo credo. Vabbè, se sei ne sono morti, più quelli che si sono fatti male, che male non sono morti. Infatti, infatti, per carità, guarda, ui, ui. E poi dico la ragazza non si è più saputo niente, dice che aveva bevuto uno di Porto Torres, era ah, senz'altro avevano ritirato la patente. Non lo so, non ho più saputo niente, vabbè, proprio. Anche lui nel male ha avuto una sfortuna, perché cacchio, passava 2 minuti dopo, un minuto prima non succedeva nulla. È vero, è vero, è vero, e infatti non ne aveva neanche colpa se queste persone sono messe in mezzo alla strada. E come fai? Magari stava pure... diciamo camminando e sono apparsi all'improvviso. E vabbè, o qualche, io interrompo là, che adesso vado, mi colgo un pochettino che sono stanco. Se siete Domenico salutalo e poi magari ci sentiamo domani, mi fai sapere tutte le novità, speriamo niente di grave. Ok, ti saluto, ciao ciao, saluto a tutti quanti eventuali persone che sono. Aspetta, chiamo prima Giuseppe se c'è ancora. Giuseppe ci sei? Sì, ci sono, non bene. Perché sta arrivando a Bomboletta? Dove sei arrivato? Alla salita di Sacca sono. E si vede? Ah? Niente si vede. No, stanno lampeggiando vuol dire che sono vicino, dai. Tutto libero, dico, non si vedono blocchi di strada. No, è tutto libero, ecco. Aspetto 2 secondini, 2 minuti, vediamo se ci puoi dare qualche risposta tu, se no tra 2 minuti chiudo. Avanti, Falca. Sei già arrivato? Che cosa c'è? Si vede qualcosa? Sono stati stanno facendo rischiare le macchine e tutto quanto. Quindi non ci puoi arrivare lì nella zona dell'incidente? Molto lontano da te, quanti metri è? avuto un incidente. Quindi non ci passi davanti, non ci puoi passare davanti. Cos'è? Davanti non ci devi passare tu. No, non mi fanno passare. Quindi stai tornando indietro. A piedi. Lontano, se sei vicino ti aspetto, se no pazienza. Vabbè dai, mi fai sentire, dai, aspetto qualche minuto, dai, avanti qualche. Beh, se avete messo blocco il traffico, è un casino. Adesso aspettiamo un attimino, vediamo un po', dai. Ok. Beh, c'è anche il cambio domenico, fermo, adesso il domenico stava aiutando da Romano, capito? Non lo so, io non lo conosco la domenico, non ti posso dire niente. Tu lo conosci la domenico di persona? Sì. A che cambio non conosci? A che cambio? Quello c'è un articolato, una motrice sola. Ho articolato, Quindi conosci anche il mezzo, eh? Sì. Oh, via. Ma speriamo non sia nulla di grave, E a cosa lo conosci a Giuseppe di persona? Giuseppe, questo qua. Sì, a questo è Leoncino. Sì, ma qua alla stazione, con il barista, perché qua c'è il barista. Ma c'è il barista? Sì, alla stazione, il cassiere della stazione qua c'è, Giuseppe, e io lo conosci. Ah, non barista del bar, no? Oh, al bar della stazione lavorava, capito, il cassiere. Sto scherzando, che alcuni dice cosa fare barista, no, ma barista di Ruccoli, di Bauri. E mi sono pulisce. Ma ti chiedo, dove vai tu? Io trovo in tribunale, e cosa vuoi, avvocato? No, è pulizia. Ho visto. E forse c'è qualcuno che chiama, avanti, chi chiama? No, non c'è niente, dai. Ok. No, qua si lo conosco, almeno di coso. Non lo conosco, nel senso, quasi solo ve la dico sì, come Antonello, solo ve lo conosco, però non ci siamo mai visti in faccia. Ah, capo, no, ma se lo dovessi vedere, io lo sapevo la via. Ma tu lo conosci già da prima di stare in frequenza, voi siete rivisti dopo? Con Giuseppe no, ma Giuseppe lo conosco prima è andato in frequenza, dopo è entrato in frequenza, dopo se n'è andato, poi ha ripreso, no, lo conosco da prima. No, vabbè, ci sono da poco, qualche annetto non ci sono da molto. Poi tutte le vecchie generazioni le ho conosciute, dai. Positivo. No, io già ne conosco parecchi. E io? Parecchi che addirittura non stanno più neanche modulando. No, già ne ho conosciuto CB io, tanti anni fa, ma diverse almeno 25 anni fa, che poi non so più che fine abbiamo fatto. No, lo sono pensato. Anche se te fai un giro a Sassari, io più se ci penso che qualche centinaio di CB ci abbia ancora le attrezzature, perché anche in giro ve ne sono bene. Sì, per le strade magari accendono e stirano solo l'ascolto. Che ho più sentito, non vorrei che ci avesse qualche problema, Mario Manser. Infatti ci devo andare a trovarlo io. Ne sa uno di questi giorni, lo chiamo a vedere il successo, perché c'era un periodo che mi aveva detto che non era stato bene, avevano ricoverato, non volevo che ci avesse qualche problemino, speriamo di no. Infatti speriamo di no, ma io ci voglio andare proprio per vedere se... perché se non entrava lui, entrava il figlio e a casa della ragazza, no? se era messo un apparatolino, un'antenna veicolare. E meno male ci parlavamo anche con il socio, però neanche più a lui ho sentito, neanche più al socio. Sì, anche il socio lo parlava. E il socio del figlio però è. Non lo sapevo, lui già l'ho sentito qualche volta con la ragazza, ma il socio non lo sapevo. Sì, entrava il socio anche. Adesso facciamo di nuovo un'ultima chiamata, attenzione se ci sei Giuseppe o Domenico, chi può rispondere avanti per darci notizie. Tu, non c'è niente. Beh, Antonio, tu, io ti saluto, dai, sono un bel stanco, vado a buccarmi, dai. Ci sentiamo magari domani se coincide, se no, buona giornata e buon tutto. Ciao, ciao. Chiaro, bella, vai tranquillo che se c'è qualcosa ci sentiamo domani, la conferma di quello che più o meno è successo, dai. Buona carica, buon tutto, buon riposo, Roberto, tutta domani. Ciao, Roberto. Ciao. Ciao. Dimmi, devo uscire. Devi tornare. successo? Sì, beh. Non ce la spiegava dopo, perché dovevo tornare a casa, non ho compreso qualcosa. Forse lo sono perduto a piedi. Sì. C'è un attimo di bianco. Cos'è Giuseppe? Ripeti. Vabbè, mi senti? Sì, dimmi. Hanno portato via tre persone dalla macchina, ce n'è una incastrata, dunque Domenico è bloccato lì e dunque non sanno più una finiscono, hai capito? Hanno? Sanno più una finiscono e sono bloccati lì, hai capito? Hanno portato via tre ragazze, però ce n'è una incastrata. Cappa, e che macchina è? Una Clio. Quella che è incastrata ha messa male? Figlia, è tutta distrutta. Cacchio, bu, non lo so, vabbè, ma è pericolo di vita. Non si sa, c'è un'ambulanza, un'altra ambulanza, ne sta salendo un'altra e boh. Ha coinvolto tre macchine. Ah, tre macchine sono coinvolte. Yeah. Allora, questa Clio è la più danneggiata. E le altre che macchine era? Una Golf e un Opel. Va bene, dai, ti saluto, grazie delle informazioni, sto chiudendo. Quale ti ha fatto i miei? Avanti, Anto. Sì, ciao, ciao, ciao, vengo. Voglio l'espresso. E chi si cammina lì? cambiarti la tastiera un po' perché non va bene così. Ciao.